Abbiamo scoperto ieri sera, leggendo come tutti gli allegati al decreto della Presidenza del Consiglio, che dà un'ulteriore stretta alle attività produttive, che tra le attività appunto considerate strategiche e necessarie c'era anche la possibilità, appunto previo diciamo contatto con i prefetti del luogo, di continuare le produzioni legate alle industrie dell'aerospazio e della difesa. Ecco, noi crediamo che in questo momento in cui molte aree economiche del paese sono state bloccate, fermate per l'emergenza coronavirus, e che molte delle risorse, delle energie, delle persone si stanno fermando proprio per evitare il contagio, continuare a produrre armi sia insensato ancora di più di quello che riteniamo essere insensato in situazioni normali. Pensiamo che non si possa rischiare la salute degli operai in primis e la diffusione ulteriore del contagio, quindi problemi per tutti, solo per continuare a produrre cacciabombardieri, elicotteri militari o chi più ne ha più ne metta. Già nel suo discorso di sabato sera il premier Giuseppe Conte aveva detto, insomma, che lo stop sarebbe stato per le attività non essenziali, ma come dire, venivano salvate anche quelle strategiche. Dunque le armi vengono considerate una produzione strategica nel nostro paese? Purtroppo sì, l'abbiamo visto diciamo in maniera lampante con il stabilimento di Cameri in provincia di Novara, quello in cui si assemblano gli F-35, che già solo all'inizio dell'emergenza coronavirus era stato in fretta e furia ripulito e sanitarizzato per non perdere se non un paio di giorni. Ecco, pensiamo che davvero è impressionante vedere come lo sforzo di molte persone nel nostro paese sia volto anche a cercare una collaborazione per evitare, superare l'emergenza del coronavirus, ma c'è chi continua ad andare avanti per il proprio profitto, e non sono solo le industrie di armamenti, ma in più un profitto che deriva dalla costruzione di sistemi che servono a fare la guerra, servono a uccidere, servono a sparare. Ecco, questo ci sembra davvero un contrasto stridente, lampante, forte, che andrebbe cambiato. Noi chiediamo eventualmente alle aziende di riconvertirsi alla produzione sanitaria subito e poi anche in prospettiva. Quello sì, quello va bene, quello è tra virgolette un rischio che si può correre, perché è un rischio che è messo a disposizione della collettività, un po' come fanno in questi giorni gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, ma anche chi tiene in piedi quelle che sono davvero le filiere essenziali, quella del cibo, quella delle cose essenziali che servono alle persone oggi in quarantena o bloccate in casa. Tra queste sicuramente non ci sono i cacciabombardieri, e questa richiesta va a completare quanto abbiamo detto anche pochi giorni fa, notando come negli ultimi anni la spesa sanitaria si sia ridotta, si è passata da oltre il 7% del PIL a circa il 6,5, mentre negli stessi anni la spesa militare è cresciuta. Noi vogliamo un paese che esca da questa crisi con la consapevolezza che investire in sanità e in welfare è molto meglio che investire nelle armi. Visto che comunque il paese fronteggerà, e lo sta già facendo in parte, ma sarà ancora peggio in futuro, una grande crisi economica, il bacino della spesa militare potrebbe essere un bacino per invece ridistribuire in welfare? Assolutamente sì, certamente non possiamo pensare risolvere tutto solo riconvertendo la spesa militare, che è appunto circa l'1,4% del PIL ed è minore per esempio della spesa per la sanità o per l'istruzione. Però possiamo iniziare anche da quello ad avere una riconversione che non solo permetterebbe subito di utilizzare soldi al posto che per nuove armi, per nuovi ospedali, nuove strutture sanitarie, nuove scuole, ma che avrebbe un effetto moltiplicatore economico molto più positivo. Tutti gli studi economici infatti dimostrano che un investimento nella difesa ha come ritorno, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista produttivo, che dal punto di vista di posti di lavoro, dei numeri molto inferiori a quelli che si potrebbero avere appunto in altre forme di investimento, la riconversione ecologica, la sanità, l'istruzione. Ecco, quindi un cambio da questo punto di vista magari non potrebbe essere subito la soluzione di tutti i mali, ma potrebbe rendere l'investimento dei soldi pubblici, cioè i soldi di tutti noi, molto più efficace nel medio e lungo periodo. Diciamo, allargando un po' il ragionamento, in alcuni stati, penso alla Francia, penso agli Stati Uniti, questa emergenza sanitaria viene affrontata con una narrazione bellica. Lo stesso Macron ha detto siamo in guerra. E che sensazioni ti dà questa cosa? L'abbiamo detto in questi giorni, non ci piace, e non solo perché siamo pacifisti, quindi la narrazione bellica militarista non ci piace, ma per fondamentalmente due motivi. Uno, se tu non capisci e non sai nominare, descrivere un fenomeno nella maniera giusta, non lo sai anche gestire, non sai curare. Usiamo una metafora da medico: se tu sbagli la diagnosi non sei in grado di trovare la cura, e continuare a dire che questa è una guerra è sbagliato, perché non lo è. perché non lo è nei fatti. Abbiamo qualcosa che ci sta portando un'insicurezza maggiore e sta uccidendo purtroppo molti dei nostri concittadini, ma non è un nemico esterno, non sono altre persone, non sono altri paesi, non sono altri stati. Il problema è che la retorica militarista serve per annullare tutto, per fare in modo che sia tutto straordinario e quindi non si debba usare la testa. No, capiamo che è un'emergenza sanitaria e non è una guerra, e quindi usiamo l'intelligenza per risolverla e usiamo gli strumenti che non sono bellici, non sono quelli della forza, non sono quelli di contrastare con la violenza qualcos'altro. Un altro motivo per cui non ci piace questa metafora è per il fatto che le guerre vere sono un'altra cosa. Noi oggi viviamo una situazione di stress e di crisi fortissima, con impatti fortissimi su tutti noi, ma la guerra è 100 volte peggio. La guerra vuol dire stare come in Siria per 9 anni senza poter uscire, in un coprifuoco vero e col rischio di saltare per aria o di vedere i propri figli uccisi, o come in Yemen, fra pochi giorni sarà il 5° anniversario dell'inizio del conflitto, dove l'80% delle persone vive grazie agli aiuti umanitari e non ha l'accesso all'acqua. Ecco, noi avremo sicuramente problemi anche economici, ma non abbiamo tutto distrutto, non è come la fine della Seconda Guerra Mondiale, dovremo riattivare delle risorse, ma siamo sicuramente in una condizione migliore. Quindi usare, secondo noi, questa metafora guerra serve ad alcuni per preparare il proprio tornaconto. Già alcuni hanno detto, soprattutto dalle parti di Confindustria, servirà un'economia di guerra, tanti soldi, ma lo Stato non li deve gestire. Ecco, a me sembra solo appunto una preparazione per avere un tornaconto ulteriore.